Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Il messaggio da mandare a tutti i giovani ricercatori italiani che vanno all'estero, oppure come nel nostro caso un po' stanno in Italia, un po' vanno all'estero, che una speranza c'è, perché se un'autorità internazionale, una giuria internazionale come questa ha dato un piccolo riconoscimento a noi, vuol dire che l'ha dato anche a tutti i ricercatori italiani che lavorano nei diversi settori. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Una speranza c'è, dice Luigi Cattel, fresco vincitore della sezione ricerca allo European Inventor Award, premio che viene assegnato ogni anno dall'Ufficio Europeo Brevetti alle migliori invenzioni del vecchio continente. Luigi Cattel ha ottenuto con Barbara Stella il riconoscimento per la realizzazione di nanocapsule, invenzione dalle enormi potenzialità che ha potuto però essere brevettata solo grazie all'equipe francese di Patrick Couvreur, che ha messo sul tavolo i 5 milioni di euro necessari a completare la ricerca. Per Cattel e Stella, i veri inventori, una grande soddisfazione, minata però dall'amarezza di aver trovato in Italia solo porte chiuse quando hanno cercato aiuto economico. E così, come per molti successi della nostra ricerca, di italiano rimane alla fine solo il nome. I brevetti vanno a chi ci mette i soldi. Tuttavia, come avete sentito, resta la speranza e la voglia di guardare con ottimismo al futuro. Un ritratto in miniatura, se volete, dell'Italia, paese dotato di individualità e creatività straordinarie, inserite però in un contesto generalmente inefficiente, incapace di valorizzare questo suo grande capitale umano. Italia che produce storie che meritano di essere raccontate, come quella di Vincenzo Urbano, 19enne studente di un istituto tecnico di Lecce, che dopo aver ascoltato il mea culpa del premier Enrico Letta sui talenti in fuga, ha deciso di rinunciare a una borsa di studio di 6 mesi per uno stage negli Stati Uniti. Vincenzo pensa ora di proseguire gli studi in Italia e rimandare il tirocinio oltreoceano. A lui ci permettiamo di dare un piccolo consiglio: non rinunciare a una formazione all'estero, mai. Come non rinunciare alla pretesa di avere opportunità pari a quelle di qualsiasi altro tuo coetaneo nel tuo paese. Esigi che prevalga sempre il migliore e il merito. Parti, insomma, per tornare e affermarti qui. Noi vi ricordiamo infine che c'è tempo fino al 30 giugno per partecipare alla terza edizione del premio Marzotto, che destina complessivamente 800.000 euro agli imprenditori del futuro per vedere realizzata la propria idea di impresa innovativa e sociale. Il premio prevede la possibilità di accedere a 10 tra i più attivi acceleratori e incubatori di imprese in tutta Italia. Tutte le info a www.premiogaetanomarzotto.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Boston, la più europea delle città americane. Come abbiamo scoperto preparando questa puntata, Boston è da anni punto di approdo per musicisti di talento che in Italia non trovano sbocchi professionali interessanti. Andiamo allora a scoprirne di più. Nome: Moira. Cognome: Lo Bianco. Età: 28. Città di origine: Vibo Valentia, Calabria. Studi: Music. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2011. Per andare dove? Boston, Stati Uniti. Perché? Ho vinto una borsa di studio al Berklee College of Music. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono una musicista. Dove? A Boston. Tornerai? Sarò molto sincera, in Italia purtroppo la mia carriera da musicista era considerata un hobby. Tante volte mi sono trovata in situazioni del tipo: che lavoro fai? E io, la musicista. Risposta: beh sì, vabbè, ma che lavoro fai per vivere? Moira, abbiamo scelto di presentarti così a Giovani Talenti per prenderti anche un po' ad esempio. Esempio dei tanti giovani musicisti di talento italiani come te costretti a emigrare. Vogliamo anche a nome loro rispondere una volta per tutte a questa seconda domanda: cosa fai per vivere? Con i toni giusti, con i toni che si merita. Che lavoro fai, Moira? Per vivere faccio la musicista, che giuro è una professione vera. Oh. Nel mio caso mettiamolo è una nero su bianco. Che è diventata una professione. Mettiamolo nero su bianco. Moira, che futuro ha un paese dove l'arte e gli artisti non godono della dignità di poter essere considerati come tali, di poter vivere del proprio lavoro? Sergio, sinceramente credo che abbia un futuro senza bellezza. Più chiaro di così. Riavvolgiamo il nastro della tua storia ora, Moira. Quando nasci musicista? A che età? Come musicista nasco a 5 anni, quando per il mio compleanno i miei genitori mi hanno regalato un pianoforte giocattolo. E che ruolo ha ricoperto la musica nella tua formazione fin da bambina? Un ruolo fondamentale, perché sono una musicista di estrazione classica, perciò sono cresciuta suonando Bach, Bartok e Chopin. La musica classica mi ha insegnato il concetto di bellezza, ma allo stesso tempo anche di disciplina. Perciò credo che abbia decisamente forgiato il mio carattere e il mio gusto estetico. Ti sei anche iscritta al conservatorio e la mia domanda è: la tua esperienza in conservatorio come la consideri? Positiva, negativa? E soprattutto qual è stato il ruolo dei professori nella tua crescita musicale? Più che il conservatorio in sé per sé, mi piace ricordare gli insegnanti che per esempio a Vibo hanno giocato un ruolo fondamentale. La prima, Mariella Pugliese, che è stata la mia prima insegnante, e poi successivamente Paolo Sudrizzi. Entrambi sono stati degli insegnanti eccezionali che mi hanno insegnato davvero le basi della musica. Questo per farci capire quanto gli insegnanti, i docenti abbiano un ruolo poi nella coltivazione del talento. La musica classica è parte di me, ma non è tutto, ci scrivi. Quando è iniziata la contaminazione con altre forme musicali? Da subito, fin da bambina. Infatti dai 5 ai 15 anni ho fatto parte del gruppo folk della mia città, per cui sono cresciuta cantando e ballando le musiche tradizionali della mia terra, la Calabria. Però anche successivamente, quando mi sono trasferita a Roma, ho cominciato a suonare in progetti musicali di vario genere, dalla classica alla canzone d'autore, al jazz, al pop, ma anche una tribute band dei Beatles. Diciamo che non sono mai stata una musicista classica snob. A 18 anni, mentre i tuoi coetanei guardano con interesse le auto come obiettivo di vita e alle passeggiate nella piazza principale del paese, tu ottieni un regalo molto originale che si rivelerà profetico. Quale? I miei genitori mi hanno regalato un meraviglioso pianoforte Koda Boston, del quale sono ancora profondamente innamorata, il quale chiaramente poi si è rivelato profetico, visto che poi ci sei andata... si trova proprio qui a Boston. Ci sei andata davvero a Boston. E un anno dopo, a 19 anni, lasci Vibo Valencia con destinazione Roma. Per iscriverti a quale facoltà? A Roma ho frequentato l'Università di Tor Vergata, dove mi sono laureata nel 2009 in storia, scienza, tecniche della musica e dello spettacolo, con una tesi in etnomusicologia. Qual è stato il tuo impatto con la capitale? Perché vi hai intravisto solo opportunità, senza farti scoraggiare dalla sua grandezza, dalla sua dispersione? Beh, il mio impatto con Roma sinceramente è stato straordinario, perché lasciare la piccola provincia per me è sempre stato il mio sogno, per cui la grande città non mi ha mai impaurita, anzi, piuttosto mi ha dato la grinta e soprattutto la possibilità di mettermi in gioco, di conoscere dei musicisti che mi hanno insegnato tanto. E infatti la scena musicale romana si è rivelata per te una miniera di opportunità. Ci racconti come il jazz è entrato nella tua vita fondendosi con la musica classica e per trasformarsi in cosa? In generale credo che il jazz inizialmente offre al musicista classico l'alternativa, Sergio. L'alternativa alla musica scritta, al rigore e anche al concetto di giusto o sbagliato tipici dell'ambiente classico. Perciò il jazz mi ha insegnato ad approcciare la musica in maniera diversa, come dico io, con le orecchie piuttosto che con gli occhi. E a livello universitario invece che giudizio dai tu all'università italiana? È servita per formarti per il futuro anche in campo musicale? Sinceramente io sono stata una studentessa universitaria abbastanza anomala, perché leggevo libri di letteratura, storia e etnomusicologia nel tempo libero, perciò diciamo che per me l'università era il mio hobby. E nel 2011, due anni fa, arriva la grande svolta. Quale opportunità ti si presenta per volare dall'altra parte dell'oceano e come la cogli? Come regalo di laurea all'università, appunto, ho deciso di regalare a me e alla mia migliore amica Elisa l'audizione alla Berkeley, perciò siamo andate insieme a Nancy in Francia. Pochi mesi dopo ho ricevuto la notizia della borsa di studio. Sicuramente lasciare tutto e tutti in Italia non è stato semplicissimo, però sapevo che quella era la decisione giusta da prendere. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Forse perché ho suonato un pianoforte Boston per anni mi è sembrato destino. Grazie a una borsa di studio mi sono diplomata a Berkeley nel 2012 e considero il mio tempo lì il periodo più entusiasmante della mia vita. Scrivi con un entusiasmo davvero mal celato a giovanitalenti@radio24.it. Quale ambiente straordinariamente competitivo hai trovato al di là dell'oceano e quanto è stato anche meritocratico e stimolante? Ci tengo a precisare che per me Berkeley non è soltanto una delle scuole più prestigiose al mondo, ma è una vera e propria famiglia, poiché il supporto che ho ricevuto qui da parte degli insegnanti, dallo staff e anche da tutti gli studenti è stato davvero incredibile. E la meritocrazia, perlomeno secondo la mia esperienza, è stata la base di tutto. Questo è il motivo principale per cui amo profondamente questa scuola. Qui a Berkeley, se hai un'idea musicale che è personale, che è tua, il Berkeley è il posto giusto dove realizzarla, anche perché è il luogo dove crollano le cosiddette etichette musicali. E in cosa ti sei diplomata esattamente a Berkeley? Professional Music, che è un programma di studio che ti permette di scegliere le classi da frequentare secondo i tuoi gusti e le tue esigenze, senza seguire un percorso interamente definito. In tutta onestà, una carriera così rapida e fulminante in Italia sarebbe stata possibile? Io credo che la mia carriera stia cominciando adesso, ma di certo qui ho avuto tante possibilità, poiché sono riuscita a realizzare le mie idee musicali sempre, anche a collaborare con dei musicisti con molta più esperienza di me. Perciò credo che l'America è il posto giusto dove poter provare a realizzare i miei sogni. E questa primavera hai realizzato Lunaria, il tuo primo album a breve in uscita, di cui stiamo ascoltando un altro estratto. Quale tipo di musica troviamo in Lunaria? In Lunaria si trova esattamente me, quindi con tutti i percorsi musicali e anche personali che sto facendo in questi ultimi 2 anni. Quindi c'è la musica classica, c'è l'influenza jazz, ma anche Middle Eastern music, quindi la musica araba. Quanto è stato semplice o meno produrre un proprio CD negli Stati Uniti? Quanto è diverso il mercato musicale al di là dell'oceano? Se sei un artista indipendente, così come io lo sono, almeno per il momento, produrre un disco non è mai semplice, credo, ovunque ti trovi. Ma di certo qui ho incontrato le persone giuste, che quindi hanno investito nel progetto e si sono dedicate interamente. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Io credo che l'Italia abbia bisogno di una vera e propria rivoluzione culturale. Come la chiamo io, una rivoluzione umana, attraverso cui presentare un modello di leadership completamente diverso da quello attuale. Il mio sogno è quello di vedere al governo un giorno delle persone per bene, dei politici con un forte senso di responsabilità che siano davvero al servizio dell'Italia e non del proprio ego e dei propri interessi personali. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Moira Lobianco, 28 anni, pianista, compositrice e arrangiatrice italiana a Boston. Moira approda negli Stati Uniti dopo un diploma di conservatorio in Calabria e una laurea in storia, scienze e tecniche della musica e dello spettacolo a Roma. Nel 2011, dopo aver svolto importanti collaborazioni musicali in Italia, contaminando il genere della musica classica con il jazz, arriva l'occasione della vita, una borsa di studio al Berklee College of Music di Boston, l'Olimpo, per una giovane musicista come lei. Negli Stati Uniti Moira trova un ambiente musicalmente competitivo ma anche estremamente stimolante. Un anno fa si diploma e il suo primo album Lunaria è in uscita. Credo che in Italia purtroppo l'atteggiamento nei confronti dell'arte in genere sia improprio. In America tutto è business, perciò anche essere una performer diventa una possibilità, riflette Moira. Ci raggiunge ora in linea Marcello Pelletteri, professore al Berklee College of Music, nonché musicista indipendente. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Pelletteri, ripartiamo proprio da quest'ultima considerazione di Moira. Anche a tuo parere c'è in Italia un atteggiamento improprio nei confronti dell'arte? Purtroppo direi di sì. Ed è una cosa da notare guardando i festival italiani, per esempio, non maggiori. Quest'anno stanno chiudendo i battenti per mancanza di sostegno economici. Un'altra cosa da notare, per esempio, il Brass Group di Palermo, che è una scuola che va avanti da 40 anni e ha fatto sempre un'attività concertistica grandissima, invitando tutti i più grandi jazzisti. Anche il brass sta... C'è un declino, insomma, mi pare di capire, Marcello, c'è un declino. C'è un declino, purtroppo, sì. Tu sei stato uno dei pionieri della musica italiana a Boston. Sei a Berklee da 27 anni. Qual è stato il tuo personale percorso professionale e quali furono all'epoca i motivi che ti spinsero a lasciare l'Italia? Io ho cominciato a fare musica professionalmente da quando avevo 18 anni, 19 anni, suonando con i più grandi, famosi jazzisti siciliani. A un certo punto mi sono detto di fare il salto e provare a migliorarsi da un'altra parte. E quindi ho deciso di andare negli Stati Uniti. Perché negli Stati Uniti? Perché ho notato sempre nei musicisti americani che venivano a suonare in Italia una differenza nel suonare, e quindi ero così incuriosito da andare in questo paese dove il jazz è nato. Il Trait d'Union che ti lega Moira è l'album Lunaria, di cui abbiamo già parlato nella prima parte della puntata e di cui stiamo ascoltando ora un terzo brano. In questo album tu sei batterista. Quanto della tua storia hai visto riflessa nella storia di Moira? Quanto ti sei rivisto a distanza di anni? Io ho incontrato Moira per la prima volta in un'occasione di un mio concerto all'Università della Sapienza di Roma. In lei ho rivisto me stesso nell'entusiasmo che lei aveva, nella passione che ha per la sua musica, soprattutto nella voglia che aveva di migliorarsi, quindi di cercare qualcosa che la potesse far crescere notevolmente nel minor tempo possibile. Questi sono stati i miei stessi motivi che mi hanno spinto a lasciare l'Italia, a venire a studiare. È incredibile, a distanza di 20 anni, percorsi che si ripetono in qualche modo. Nella mia lunga carriera di musicista e insegnante sono venuto a contatto con tanti giovani talenti italiani che oggi fanno parte della scena musicale italiana o internazionale. È scritto a giovanitalenti@radio24.it. A Boston, scrivi, gli studenti vengono con tante speranze ma anche tante domande. Allora sarò diretto. Quanto è forte la componente di fuga dall'Italia in questi giovani? Direi che il fattore fuga non sia il motivo per cui i giovani vanno a studiare all'estero. Ovviamente il motivo principale penso sia il confrontarsi con realtà diverse, arricchirsi culturalmente. Casomai la fuga subentra in un secondo momento, cioè quando alla fine di un ciclo di studi si comincia a cercare lavoro. E in Italia è un problema. Che in Italia è un problema, sì. Quale ambiente trovano però negli Stati Uniti? Quale livello di studi e collaborazioni? Quanta competizione, ma soprattutto quanta meritocrazia? L'ambiente che si trova qui negli Stati Uniti è un ambiente stimolante perché è altamente competitivo. Dove c'è competizione c'è crescita, c'è scambio di idee, ci sono scambi di informazioni, ci si confronta per crescere insieme. Soprattutto una cosa che ho notato è che non ci sono gelosie e quando si impara, sai, l'uno dall'altro si fanno grossi passi avanti in breve tempo. Se sei valido vai avanti. Anche qui ovviamente le conoscenze, gli agganci per portarti avanti ti possono portare dei vantaggi a livello professionale, però il tuo valore è sempre preso in considerazione e chi ti dà una mano, una spinta, ci mette la faccia. Ovviamente nessuno. La raccomandazione all'anglosassone, ti raccomando, ma ci metto la faccia e se sbagli anche la mia reputazione sarà danneggiata. Marcello, la musica non attraversa un buon momento in Italia. Tempo fa Mogol qui a Giovani Talenti denunciava proprio come non si punti più sui talenti magari sconosciuti ma su prodotti musicali sicuri, anche a costo di fomentare mediocrità e ripetitività. La musica, oltre a una valenza culturale, può tornare secondo te ad essere una vera e propria professione anche qui, con una dignità del giovane artista, oppure emigrare resta secondo te l'unica soluzione per affermarsi? Perché la musica possa tornare a essere una vera professione in Italia, penso che ci sia bisogno del fatto che sia insegnata bene. Questo vuol dire innanzitutto promuovere una guida all'ascolto. La musica è un linguaggio, quindi quando impari una lingua hai bisogno di ascoltare qualcuno che parli bene quella lingua. Una guida d'ascolto è un qualcosa che ti deve dare esempi di musica valida che siano un'applicazione della teoria che si studia. E questo è valido per qualsiasi stile musicale, contemporaneo, jazz, classico. Poi ogni artista quando fa delle scelte deve esserne responsabile, se ne deve sentire responsabile. Se non ci si sente degni le nostre scelte, allora è meglio cambiare. Se cambiare vuol dire emigrare, è allora che lo si faccia. Però io ho sempre detto a me stesso che io vado dove la musica mi porta, quindi direi ai giovani che sono al servizio della musica di creare qualcosa di valido e la musica vi porterà in giro per il mondo. Grazie a Marcello Pelliteri e domanda diritto a Moira Lobianco. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita o uscite di emergenza a un espatrio? Non permettete mai a nessuno di scoraggiarvi. Non abbandonate mai il vostro sogno. Non smettete mai di crederci, ma piuttosto trovate il modo di realizzarlo. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Ultimo appuntamento del nostro viaggio tra i libri appena pubblicati sul fenomeno della nuova emigrazione, volumi scritti proprio dai nostri giovani espatriati. Andiamo allora a Londra. Agli emigrati italiani nella capitale britannica è dedicato il volume La Londra degli italiani, dai Penny Ice alla City, due secoli di emigrazione, di Alessandro Forte. Sentiamo. Londra gioca probabilmente un ruolo fondamentale per l'emigrazione attuale, soprattutto quella giovanile, perché tra tutte le città d'Europa è forse quella che ti riesce a regalare un brivido di ottimismo maggiore quando arrivi, perché le possibilità di carriera, di sviluppo sono molte. Due aggettivi: Londra è giovane Londra internazionale, un abitante su tre è nato all'estero, nei quartieri centrali questa percentuale va sopra il 50%, e ben il 70% della popolazione ha meno di 40 anni, quindi questo ti dà la cifra di una città estremamente energetica, di una città estremamente dinamica, che dà effettivamente molte opportunità. Nel tuo libro tracci una storia dell'immigrazione italiana a Londra. Qual è la principale differenza tra l'immigrazione storica e l'immigrazione attuale? Sicuramente l'immigrazione storica era un'immigrazione povera, un'immigrazione di braccia, adesso è un'immigrazione di cervelli. Naturalmente il file rimane analogo, si cercava di migliorare la propria condizione allora e rientrare in Italia, adesso allo stesso modo si scappa da un'Italia povera di opportunità e purtroppo questa volta non è detto che ci sia la voglia di tornare. Qual è l'identikit dell'italiano medio che oggi si trasferisce in piena crisi 2013 a Londra? Possiamo dividerlo in due categorie, cioè l'italiano giovane senza esperienze professionali e che magari non ha ancora cominciato studi importanti, che va a Londra per imparare la lingua, spesso sedotto da una città che gli dà molto di più, seppure in condizioni difficili, perché le paghe sono basse, perché c'è competizione molto feroce anche a livelli bassi della filiera produttiva, e che però probabilmente molto spesso decide di rimanerci, anche se il piano iniziale era di tornare via dopo un paio d'anni. L'altro identikit è un giovane appena laureato che ha tentato di trovare lavoro in Italia, ma che si è scontrato con concorsi molto difficili da vincere se ci si basa solo sulle proprie capacità e su contratti a tempo determinato, quindi per paura di diventare un precario a tempo indeterminato decide di provare un'altra strada e spesso gli va bene. Nonostante la crisi, anche in Gran Bretagna continui a vedere un flusso di italiani e soprattutto consigli di tentare la fortuna a Londra lasciando l'Italia? Sicuramente sì, perché è una città che anche durante la crisi il PIL di Londra è continuato ad aumentare, la popolazione è continuata ad aumentare e le opportunità di lavoro lo stesso. Sicuramente è una città in cui se hai voglia di lavorare e talento te la puoi giocare, può andarti bene, può andarti male, ma perlomeno hai una chance, spesso in Italia purtroppo non hai nemmeno questo. Per maggiori informazioni, La Londra degli Italiani di Alessandro Forte, edizioni Aliberti. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Fino a giugno è aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa della settimana è No ai cooptati, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di giugno è: si emigra sempre più in due o anche in tre o più ancora? Quanto sta diventando un discorso di coppia o di famiglia lasciare l'Italia? Con quali perdite per il sistema paese? Se ad andarsene è un pezzo di futuro giovane e qualificato? Raccontateci le vostre storie. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.